un nuovo arrivo. «Ma perché dobbiamo fare una passeggiata con Ellen?» brontolò Michael, chiudendo con violenza il cancello. «Non mi piace, Ellen ha il naso troppo rosso!» «Shh!» disse Jane, «ti può sentire!» Ellen, che stava spingendo la carrozzina, si voltò. «Siete un bambino crudele e maleducato, padroncino Michael. Non faccio che il mio dovere, francamente. Non è davvero un piacere per me andare a fare una passeggiata con questo caldo. Ecco!» Si soffiò il naso in un fazzolettone verde. «E allora perché vieni?» domandò Michael. «Perché Mary Poppins è occupata. Su via, andiamo, siate buone e vi comprerò un sacchetto di mentine.» «Non voglio le mentine», borbottò Michael. «Voglio Mary Poppins.» Plop, plop, plop, plop. I piedi di Ellen avanzavano lentamente e pesantemente lungo il viale. «Vedo un arcobaleno attraverso ogni fenditura del mio cappello», disse Jane. «E io no», rispose Michael rabbiosamente. «Vedo soltanto la fodera di seta.» Ellen si fermò all'angolo, osservando timorosamente il traffico della strada. «Avete bisogno di aiuto?» domandò un vigile gironzolandole attorno. «Sì», disse Ellen arrossendo. «Se poteste farci attraversare ve ne sarei molto grata, perché con un raffreddoraccio e quattro bambini da sorvegliare non so se sto sulla testa o sui piedi.» E si soffiò il naso nuovamente. «Ma devi saperlo, non hai che da guardare?» disse allora Michael, giudicando Ellen molto sciocca. Ma il vigile la pensava apparentemente in altro modo, poiché con una mano prese il braccio di Ellen e con l'altra il manubrio della carrozzina, con la stessa tenerezza che se fosse stata la sua fidanzata. «Avete un giorno di libertà?» si informò, fissando con interesse la rossa faccia di Ellen. «Ecco», rispose Ellen, «mezza giornata, per così dire, ogni due sabati.» Si soffiò il naso impacciata. «Che combinazione!» continuò il vigile. «Questi sono pure i miei giorni di libertà, e di solito io mi trovo proprio in questi paraggi verso le 2 del pomeriggio.» disse Ellen spalancando la bocca. «È così?» concluse il vigile, facendole un cenno di cordiale saluto. «Bene, vedremo», disse Ellen. «Arrivederci!» E si avviò, voltandosi di tanto in tanto a vedere se il vigile la stesse ancora osservando. Ed era infatti così. «Mary Poppins non ha mai bisogno di un vigile», brontolò Michael. «Per che cosa dovrà essere occupata?» «Qualcosa di importante sta succedendo a casa», rispose Jane. «Ne sono sicura.» «Come lo sai?» «Provo dentro di me una vaga sensazione di attesa.» «Puah!» disse Michael. «Scommetto che hai fame. Non possiamo camminare più in fretta, Ellen, e farla finita?» «Questo bambino», disse Ellen al custode del parco, «ha un cuore di pietra.» «No, non possiamo, padroncino Michael, a causa dei miei piedi.» «Che cos'hanno i tuoi piedi?» «Possono camminare soltanto così e non più in fretta.» «Oh, cara Mary Poppins!» sospirò Michael amaramente. Proseguì di malavoglia dietro la carrozzina. Jane camminava accanto a lui contando gli arcobaleni attraverso il cappello. I piedi lenti di Ellen si trascinavano avanti pesantemente. Uno, due, plop, plop, plop, plop. E lontano, dietro a loro, nel viale dei ciliegi, la cosa importante stava compiendosi. Dal di fuori, il numero 17 sembrava pacifico e addormentato come sempre, ma dietro le persiane abbassate c'era un traffico e un andirivieni che, se non fosse stata estate, i passanti avrebbero pensato che gli inquilini della casa facessero le pulizie di Pasqua, oppure i preparativi di Natale. Ma la casa occhieggiava nella luce solare senza badarci. Dopotutto, pensava fra sé, ho spesso veduto simili trambusti prima d'ora e probabilmente ne vedrò molti altri, dunque perché tormentarmi? E proprio in quel momento la signora Brill spalancò la porta d'ingresso e il dottor Simpson ne uscì in fretta. La signora Brill, in punta di piedi, lo guardò avviarsi per il sentiero del giardino mentre faceva dondolare la sua valigetta di cuoio marrone. Quindi la signora Brill corse verso la cucina e chiamò emozionata: «Dove siete, Robertson? Venite qui, se avete inteso!» E salì gradini a due alla volta, mentre Robertson la seguiva sbadigliando e stiracchiandosi. «Shh!» sibilò la signora Brill. «Shh!» Pose il dito sulle labbra, e si avvicinò in punta di piedi all'uscio della signora Banks. Peccato, non si riesce a vedere altro che l'armadio, si lamentò, chinata a guardare attraverso il buco della serratura. Armadio e un pezzo di finestra. Ma dopo un attimo trasalì violentemente. Oh, misericordia! Gridò quando la porta si spalancò all'improvviso ed ella cadde riversa addosso a Robertson Hay, perché nel vano della porta, con aria sospettosa e severissima, era apparsa Mary Poppins. Fra le braccia, con grande cura, portava qualcosa che assomigliava a un fagottino di lenzuola. Ecco, esclamò la signora Brill senza respiro, siete proprio voi! Stavo lucidando la maniglia della porta. Mary Poppins guardò la maniglia, era sporchissima. Lucidando il buco della serratura, direi io, osservò aspramente. Ma la signora Brill non vi fece caso. Stava ammirando teneramente il fagottino. Con la sua grossa mano rossa abbassò un lembo del lenzuolo e un sorriso soddisfatto le raggiò sul volto. Ah! Mugolò. Ah, l'agnellino! Ah, il passerotto! Ah, il gioiellino! È bello come una settimana di domeniche! Che mi cada la lingua se non è vero! Robertson Hay continuava a sbadigliare e osservava il fagotto con la bocca semiaperta. Un altro paio di scarpe da lustrare, disse cupamente appoggiandosi contro la maniglia per sostenersi. Badate a non lasciarlo cadere ora, mormorò la signora Brill ansiosamente mentre Mary Poppins si allontanava. Mary Poppins squadrò entrambi con uno sguardo sprezzante. Se io fossi certa gente, commentò acida, baderei agli affari miei. Ripiegò il lenzuolo sul fagotto e salì nella stanza dei bambini. Scusatemi, vi prego, scusatemi! Il signor Banks saliva di corsa le scale e stava quasi per cadere addosso alla signora Brill nel precipitarsi nella stanza da letto della signora Banks. Ebbene, egli disse, sedendosi ai piedi del letto, tutto ciò è inopportuno, molto inopportuno. Non so come farò a sostenere le spese. Non ne avevo cinque in programma. Oh, mi dispiace tanto, rispose la signora Banks, raggiante di felicità. No, non ti dispiace neppure un poco, anzi sei contenta e soddisfatta. E non c'è da preoccuparsi, dopo tutto, è piccolissimo. A me piacciono così, disse la signora Brill, e poi crescerà. Eh sì, purtroppo, replicò egli amaramente. E dovrò comprargli le scarpe, gli abiti e un triciclo. Sì, e mandarlo a scuola, avviarlo a una buona carriera nella vita. Un procedimento assai costoso. Poi, dopo tutto questo, quando sarò un vecchio, seduto accanto al fuoco, egli se ne andrà e mi lascerà. Non ci hai pensato, suppongo? No, disse la signora Banks, cercando senza riuscirci di assumere un'aria afflitta. Non ci avevo pensato. Me lo immaginavo. Bene, ora è qui, ma ti avverto. Io non posso sostenere la spesa di far cambiare le mattonelle nella stanza da bagno. Oh, non te ne preoccupare, rispose la signora Banks per confortarlo. Ti assicuro che preferisco quelle vecchie. Allora sei una donna molto stupida. Ecco tutto quello che ho da dirti. E il signor Banks uscì, brontolando e sbatacchiando gli usci. Ma dopo aver varcato la porta d'ingresso, alzò le spalle, spinse il petto in fuori, si mise in bocca un grosso sigaro e poco dopo dette la notizia all'ammiraglio Boom con una voce che tradiva la sua fierezza e il suo orgoglio. Mary Poppins si chinò sulla nuova culla tra i lettini di Barbara e Giovannino e vi adagiò con cura il fagottino. Eccoti qui finalmente. Sia benedetto il mio becco e la penna della mia coda. Credevo che non saresti più tornata. E questo cos'è? Gridò una voce chioccia dalla finestra. Mary Poppins guardò in su. Lo stornello che viveva in cima al comignolo saltellava allegramente sul davanzale della finestra. È una bambina. Annabella, rispose brevemente Mary Poppins, e ti sarò grata se starai un po' più quieto. Squittisci e fai chiasso come un branco di gazze. Ma lo stornello non l'ascoltava. Faceva delle capriole sul davanzale della finestra, sbattendo disperatamente le ali ogni volta che rialzava la testa. Che gioia! Esclamò ansante quando finalmente ebbe cessato di fare capriole. Che gioia! Oh, potrai cantare! No, non ci riusciresti, neppure se ci provassi fino al giorno del giudizio universale, ribatté Mary Poppins. Ma lo stornello era troppo felice per badarle. Una bambina! Egli gridò, danzando sulla punta delle zampe. Ho avuto 3 covate in questa stagione e ci crederesti tutte di maschi. Annabella compenserà tutti quei maschi. Saltellò ancora un poco lungo il davanzale. Annabella, proruppe nuovamente. È un nome grazioso. Avevo una zia che si chiamava Annabella. Soleva abitare sul comignolo dell'ammiraglio Boom e morì, poverina, per aver mangiato dell'uva e delle mele acerbe. L'avevo avvertita io, l'avevo avvertita, ma non volle credermi. Così, naturalmente. Oh, vuoi stare zitto? Lo interruppe Mary Poppins, agitandogli contro il grembiule. No, che non voglio! Egli gridò, tirandosi sveltamente da parte. Questo non è il momento di fare silenzio, vado a diffondere la notizia. E con un balzo volò fuori dalla finestra. Sarò di ritorno fra 5 minuti. Gridò voltando la testa mentre partiva come una freccia. Mary Poppins si aggirava quietamente nella stanza, ponendo in bell'ordine gli abiti nuovi di Annabella. La luce del sole, entrando dalla finestra, attraversò lentamente la stanza e raggiunse la culla. Apri gli occhi, disse piano, e vi lascerò cadere un raggio. La piccola coperta si mosse. Annabella aprì gli occhi. Brava bambina, disse la luce del sole. I tuoi occhietti sono celesti, vedo, il mio colore preferito. Ecco, non si potrebbe trovare da nessuna parte un paio di occhi più luminosi. La luce del sole scivolò via dagli occhi di Annabella, carezzò le sponde della culla e si dileguò. Tante grazie, disse Annabella gentilmente. Una tiepida brezza, rimuovendo le trine della culla, le sfiorò la testina. Capelli ricciuti o lisci? Mormorò la brezza. Oh, ricci, per favore, implorò piano Annabella. I riccioli risparmiano i dispiaceri, vero? Assentì la brezza e si agitò sul capino biondo finché arricciò in su con cura le punte dei suoi capelli, prima di uscire volteggiando dalla stanza. Eccomi, eccomi! Gridò una voce rude dalla finestra. Lo stornello era tornato sul davanzale e dietro a lui, incerto nell'atterrare, veniva un giovanissimo uccellino. Mary Poppins mosse minacciosa verso di loro. Adesso andatevene, comandò severa. Non voglio che i passeri mi mettano il disordine nella stanza. Ma lo stornello, con il più giovane alato, le passò oltre altezzosamente. Fammi il piacere di ricordare, Mary Poppins, ribatté in tono glaciale, che tutti i miei figlioli sono allevati come si conviene. Mettere disordine. Guarda un po'. Si posò agilmente sulla sponda della culla e aiutò l'uccellino a posarsi accanto a lui. La bestiola si guardava attorno con occhi pieni di curiosità. Lo stornello saltellò lungo il cuscino. Annabella, cara. Egli cominciò con voce timida e carezzevole. Gradirei tanto un pezzetto di biscotto fresco e croccante. I suoi occhi luccicavano golosamente. Ne hai uno per caso? La testina ricciuta si agitò sul cuscino. No, infatti tu sei ancora piccina forse per i biscotti. Tua sorella Barbara, graziosa bambina, era molto gentile e generosa e si ricordava sempre di me. Così, se in avvenire tu puoi mettere da parte per un vecchio amico una briciola o due. Certo che lo farò, rispose Annabella dalle pieghe del lenzuolo. Brava bambina, chiocciò lo stornello con approvazione. Piegò il capo da una parte e la guardò col suo tondo occhio luminoso. Spero, disse gentilmente, che tu non sia troppo stanca del viaggio. Annabella scosse la testa. Di dove vieni fuori? Da un uovo? Pigolò all'improvviso l'uccellino. Ma va, lo canzonò Mary Poppins. Credi che sia un passero? Lo stornello le lanciò uno sguardo afflitto e sdegnoso. Allora cos'è? E di dove viene fuori? Domandò con voce acuta l'uccellino, sbattendo rumorosamente le corte ali e guardando a occhi spalancati la culla. Devi dirglielo tu, Annabella, chiocciò lo stornello. Annabella agitò le manine fra le lenzuola. Io sono terra e aria, e fuoco e acqua, disse dolcemente. Vengo dal buio dove tutte le cose hanno il loro principio. Ah, che buio, disse sottovoce lo stornello, chinando la testa sul petto. Anche nell'uovo c'era buio, pigolò l'uccellino. Vengo dal mare, E dai suoi flutti, proseguì Annabella, vengo dal cielo e dalle stelle, vengo dal sole e dalla sua luce. Ah, sei così luminosa, disse lo stornello assentendo. E vengo dalle foreste della terra. Come in sogno, Mary Poppins muoveva la culla su e giù, con un dondolio regolare. Sì, mormorò l'uccellino. In principio mi muovevo piano, continuò Annabella, sempre dormendo e sognando. Mi rammentavo di tutto quello che ero stata e pensavo a tutto quello che sarei divenuta. E dopo che ebbi sognato il mio sogno, mi svegliai e arrivai a tutta velocità. Tacque per un istante e i suoi occhi celesti erano pieni di ricordi. E poi, la incitò l'uccellino, nel mio cammino udivo le stelle cantare. E mi sentivo avvolta di trepide ali. Passai attraverso gli animali della giungla, attraversai acque scure e profonde. Fu un lungo viaggio. Annabella tacque. L'uccellino la guardava con i suoi lucenti occhi inquisitori. La mano di Mary Poppins poggiava tranquillamente sulla sponda della culla. Aveva cessato di farla dondolare. Un lungo viaggio davvero! Assentì a bassa voce lo stornello, sollevando dal petto il capino. E così presto, ah, così presto dimenticato. Annabella si agitò sotto la piccola coperta. No, disse fiduciosa, non lo dimenticherò. Che sciocchezza senza senso, corpo di un baccolino, certo che dimenticherai. Fra una settimana non ricorderai una parola di tutto ciò. Cosa sei e di dove vieni? Dentro le sue fasce di flanella, Annabella lanciava piccoli calci furiosi. Me ne ricorderò, perché dovrei dimenticarlo? Perché tutti dimenticano, ribatté lo stornello duramente. Ogni stupido essere umano, eccetto, accennò col capo a Mary Poppins. Lei è differente, lei è l'eccezione, lei è. Oi, passero! Gridò Mary Poppins lanciandogli un'occhiata. Ma con una gran risata lo stornello trascinò l'uccellino via dalla sponda della culla e insieme volarono sul davanzale della finestra. Ciao, mascherina! Sussurrò all'orecchio di Mary Poppins passandole accanto. Perbacco, che succede? Si udiva un coro di voci fuori sul pianerottolo e uno scalpiccio di piedi per le scale. Non ti credo, non ti voglio credere! Gridava furiosamente Annabella. E in quel momento Jane, Michael e i gemelli irruppero nella stanza. La signora Brill dice che hai qualcosa da mostrarci, esclamò Jane mentre faceva volare in aria il suo cappello. Cos'è? Domandò Michael girando lo sguardo per la stanza. Fammelo vedere anche a me, gridarono i gemelli. Mary Poppins lanciò loro un'occhiata significativa. È questa una stanza di bambini educati oppure il giardino zoologico? Domandò severamente. Rispondetemi. Il giardino, ecco, voglio dire. Michael si interruppe in fretta perché i suoi occhi si erano incontrati con quelli di Mary Poppins. Voglio dire, una stanza di bambini? Si corresse a mezza voce. Oh, guarda, Michael, guarda! Gridò Jane tutta emozionata. Ti avevo detto che stava succedendo qualcosa di importante. È un nuovo bambino! Oh, Mary Poppins, posso prenderlo in braccio? Mary Poppins, fulminandoli tutti con lo sguardo, si chinò e tolse Annabella dalla culla e sedette con lei sulla vecchia poltrona. Con garbo, per favore, con garbo, li ammonì, mentre le si affollavano intorno. Non è una nave da guerra. Un bambino? Maschio? Domandò Michael. No, una femmina. Annabella. Michael e Jane si scambiarono lo sguardo. Egli mise un dito nella manina di Annabella e la bimba strinse forte. Bambolina, mormorò Jane, spingendosi contro il ginocchio di Mary Poppins. Coniglietto, disse Barbara, tirando la copertina di Annabella. Oh, sospirò Jane mentre le sfiorava i capelli che il vento aveva arricciato. Com'è piccola e dolce, come una stella. Da dove vieni, Annabella? Molto lieta di essere interrogata, Annabella ricominciò la sua storia. Vengo dal buio, recitò piano. Jane rise. Che suoni ridicoli, esclamò. Vorrei che potesse parlare e raccontare. Annabella la guardò, spalancando gli occhi. Ma io ti sto raccontando, protestò, tirando dei calcetti. Gridò forte lo stornello dalla finestra. Che avevo detto? Scusami se rido. L'uccellino ridacchiava anche lui dietro l'ala. Forse viene da un negozio di giocattoli, disse Michael. Annabella, con un movimento rabbioso, strappò il ditino dalla mano di lui. Non essere sciocco, disse Jane. Il dottor Simpson deve averla portata nella sua valigetta marrone. Avevo ragione o avevo torto? I vecchi occhi scuri dello stornello ammiccarono sarcasticamente ad Annabella. Dimmelo, la canzonò sbattendo le ali in segno di trionfo. Ma per tutta risposta Annabella volse il faccino contro il grembiule di Mary Poppins e pianse. Le sue prime grida lievi e sperdute si diffusero nella casa. Zitta, zitta! L'ammonì lo stornello in tono burbero. Non ci badare, non ci si può fare nulla. Dopotutto sei anche tu un bambino come gli altri. Ma la prossima volta forse crederai a quelli che sono più vecchi di te e che hanno più esperienza. E così dicendo, camminava su e giù per la stanza con aria altezzosa. Michael, prendi il mio piumino da spolvero e spazza via quegli uccelli, intimò Mary Poppins. Lo stornello sghignazzò allegramente. Ce ne possiamo andare da noi, Mary Poppins, grazie. Anzi, stavamo proprio andandocene, sai? Su, figliolo. E con uno scroscio rumoroso di risa, diede un colpetto all'uccellino e si involò con lui dalla finestra. In brevissimo tempo, Annabella si adattò facilmente alla sua nuova vita nel viale dei ciliegi. Le piaceva essere il centro di attrazione ed era molto soddisfatta quando qualcuno si chinava sulla culla e diceva che era tanto carina, oppure tanto buona, oppure che aveva un carattere dolce. Continuate a farmi complimenti, assentiva sorridendo, mi piacciono tanto. E tutti, allora, si affrettavano a ripetere quanto erano ricci i suoi capelli e come erano azzurri i suoi occhi, e Annabella sorrideva con aria così felice che gli altri esclamavano: Quanto è intelligente, si direbbe quasi che capisca. Ma quest'ultimo commento la infastidiva, così voltava lo sguardo, disgustata di tanta stupidità. Però era peggio perché quando si mostrava disgustata era così carina che gli altri diventavano più sciocchi che mai. Aveva una settimana quando lo stornello tornò. Mary Poppins, nell'incerta luce del crepuscolo, dondolava delicatamente la culla. Già di ritorno? Saltò su a dire, osservando che arrivava tutto saltellante. Sei peggio di un soldo falso! Arricciò il naso con disgusto. Sono stato occupato, rispose lo stornello. Ho dovuto sistemare i miei affari. Non ho soltanto questa casa a cui badare, sai? I suoi neri occhi tondi brillarono maliziosamente. Ella disse secca, compiango le altre case. Lo stornello sghignazzò e scosse la testa. È unica, osservò con un gorgheggio tra sé e sé. È unica, ha una risposta sempre pronta. Spinse la testa verso la culla. Bene, come vanno le cose? Annabella dorme? Se dorme non è merito tuo, lo rimbeccò Mary Poppins. Lo stornello non fece caso all'osservazione. Volò al limite del davanzale. Le baderò io, disse sottovoce. Tu va giù a prendere una tazza di tè. Mary Poppins si alzò. Bada di non svegliarla allora. Lo stornello rise con aria di commiserazione. Mia cara ragazza, ai tempi miei ho allevato almeno 20 covate di uccellini. Non c'è bisogno che mi si dica come si bada a un semplice bambino. Mary Poppins si diresse alla credenza e ostentatamente si mise sotto il braccio la scatola dei biscotti prima di uscire e chiudere la porta. Lo stornello saltellò su e giù lungo il davanzale della finestra con le ali sotto le penne della coda. La culla si mosse lievemente e Annabella aprì gli occhi. Buongiorno, disse, desideravo appunto vederti. Ah, esclamò lo stornello volandole accanto. Vorrei ricordare una cosa, cominciò Annabella aggrottando le ciglia, e pensavo che tu potessi farmela tornare in mente. Lo stornello la guardò fisso, i suoi occhi scuri ammiccarono. Come cominciava? Disse piano. Così? E cominciò in un tremulo soffio. Io sono terra e aria e fuoco e acqua. No, no, lo interruppe Annabella con impazienza. Non cominciava certo così. Dimmi. Le domandò lo stornello ansiosamente. Era a proposito del tuo viaggio? Sei venuta dal mare e dai suoi flutti, sei venuta dal cielo e... Oh, non essere sciocco! Gridò Annabella. Il solo viaggio che io abbia mai fatto è stato fino al parco stamattina. No, no, era qualcosa di importante, qualcosa che cominciava per B. Annabella lanciò gridolini di gioia. Ho trovato! Ella gridò. È biscotto! C'è un mezzo biscotto all'avena sul caminetto. Michael lo ha lasciato lì dopo la merenda. Tutto qui? Chiese lo stornello deluso. Sì, certo, Annabella rispose irritata. Non ti sembra abbastanza? Pensavo che ti saresti accontentato di mezzo biscotto. Infatti, infatti, si affrettò a dire lo stornello. Ma... Annabella voltò la testa sul cuscino e chiuse gli occhi. Oh, non parlare più, per piacere, disse. Ora voglio dormire. Lo stornello gettò uno sguardo sul caminetto e poi di nuovo ad Annabella. Biscotti, disse scuotendo la testa. Ahimè, Annabella, ahimè. Mary Poppins rientrò senza fare rumore e chiuse la porta. Si è svegliata? Domandò. Lo stornello assentì con la testa. Solo per un istante, disse malinconicamente, ma è stato abbastanza. Gli occhi di Mary Poppins lo interrogarono. Ha dimenticato, egli disse con un singhiozzo nella gola. Ha dimenticato tutto. Lo sapevo che sarebbe stato così, ma mia cara, che peccato. Mary Poppins si muoveva quietamente nella stanza, riponendo giocattoli. Gettò un'occhiata allo stornello. Stava sul davanzale della finestra, volgendogli il dorso dalle penne variegate che si sollevavano. Hai di nuovo il raffreddore? Notò lei con sarcasmo. Egli si voltò. No, di certo. È che l'aria della notte è piuttosto fresca, sai? Fa lacrimare gli occhi. Beh, ora devo andare. Saltellò con leggerezza al limite del davanzale. Divento vecchio, spiegò con voce roca e triste. Ecco cos'è. Non siamo più giovani come una volta, eh, Mary Poppins? Ma io non so di te. Mary Poppins si eresse sulla persona. Ma io sono giovane, come sono sempre stata. Grazie. Ah, disse lo stornello scuotendo la testa, tu sei una meraviglia, un'assoluta, straordinaria, meravigliosa meraviglia. I suoi occhi tondi brillarono maliziosamente. Non credo, si corresse sgarbatamente mentre si slanciava fuori dalla finestra. Passero impertinente, ella gli gridò dietro e chiuse la finestra con un colpo secco.